Capitolo 8. Erano trascorse 6 settimane. Era una splendida mattina di giugno e il fieno era già stato quasi tutto raccolto. Solo che da una settimana a quella parte le giornate non erano sembrate mai quelle giuste per finire il lavoro. Quel giorno ero in mezzo al campo di fieno con gli altri lavoratori, a darmi da fare anch'io in maniche di camicia, a raccogliere erba umida a bracciate per poi lanciarla ai quattro venti. Volevo mettere a frutto il mio sforzo personale e al tempo stesso spronare gli altri a faticare dando loro il buon esempio e lavorando sodo dalla mattina alla sera. Ma tutti i miei buoni propositi andarono in fumo quando Fergus mi raggiunse di corsa recando un pacchetto arrivato da Londra che aspettavo da un bel po'. Lo scartai e ci trovai dentro un'edizione economica di Marmion. Scommettiamo che indovino per chi è, disse Fergus fissandomi mentre mi rallegravo del mio acquisto. È per Eliza, non è vero? Lo disse con tale superbia che fui davvero contento di contraddirlo. E invece ti sbagli, gli dissi prendendo la giacca, infilandoci dentro il libro e mettendomela addosso. La giacca, intendo. Vieni qui, renditi utile per una volta e sostituiscimi al campo finché io non sarò di ritorno. Fino a che non sarai di ritorno? E quando tornerai? E dove stai andando? Questo non è importante. Quel che ti riguarda è la parte relativa al tornare. Dovrei essere qui per l'ora di cena. Non dirmi che dovrò lavorare così tanto e fare in modo che lavorino duro anche gli altri? E sia, va bene, gente, adesso ci penso io qui. Guai a chi si ferma anche solo un attimo a grattarsi, soffiarsi il naso, guardarsi attorno, eh? Bisogna lavorare. Lavorare e basta. Mi allontanai mentre se la prendeva con i lavoratori, che mi parevano più divertiti che ispirati dal suo esempio. Tornato a casa, mi sistemai un po' e mi avviai verso Wildfell Hall con il libro in tasca, che era infatti destinato alla biblioteca della signora Graham. Come sarebbe? Eravate in così grande confidenza da scambiarvi dei doni? Ti starai chiedendo. Non proprio a dire il vero, quello era il mio primo esperimento ed ero particolarmente ansioso di vedere quali frutti avrebbe dato. Ci eravamo già visti diverse altre volte dopo la gita alla spiaggia. Avevo capito ormai che la mia presenza non le dava affatto noia, a patto che la nostra conversazione restasse su argomenti astratti o di interesse comune. Se invece varcavo il limite del sentimentalismo e mi mostravo troppo complimentoso, non solo ottenevo come unico risultato un repentino cambiamento d'umore, ma anche una maggior freddezza, se non addirittura un'autentica chiusura quando ci vedevamo la volta successiva. Io però non me la prendevo per questo, attribuivo il suo atteggiamento alla volontà di non risposarsi, una volontà maturata prima di conoscermi. Forse per il tanto affetto che ancora la legava al marito morto, forse perché la vita matrimoniale l'aveva tanto annoiata. Le prime volte mi era sembrato che provasse un certo gusto a mortificare i miei slanci e la mia presunzione, uccidendo sul nascere qualsiasi cosa prima che potesse sbocciare. Mi feriva, devo ammetterlo, e mi faceva venire voglia di fargliela pagare. Ma quando infine capii che non ero lo smargiasso senza cervello che aveva creduto, prese a scoraggiare i miei complimenti con uno spirito decisamente diverso. Sembrava fonte di angoscia per lei, di dolore, e iniziai a fare attenzione a non sollecitarla tanto spesso. Devo prima insediarmi come amico, pensavo, diventare un compagno di giochi di suo figlio e un confidente fidato per lei. A quel punto, quando sarò divenuto ormai indispensabile e non dovrei avere difficoltà, allora vedrò cosa è possibile fare. Parlavamo di arte, poesia, musica, teologia, geologia e filosofia. Le prestai un paio di libri e lei ne prestò uno a me. Facevo in modo di incontrarla quando usciva a passeggiare e andavo a casa sua tanto spesso quanto il buon senso mi consentiva di fare. La primissima scusa per forzare il tempio fu quella di portare ad Arthur un cucciolo tremante, figlio di Sancho, che rese felicissimo il bambino e di conseguenza accontentò anche la madre. La seconda volta andai col pretesto di portarle un libro che avevo scelto con cura e di cui prima avevo discusso con lei. Poi mi presentai con alcune piante da giardino da parte di Rose, che io stesso avevo convinto a mandarle. Tutte le volte le chiedevo notizie del quadro che stava dipingendo a partire dal bozzetto disegnato al mare, e lei mi conduceva nel suo studio chiedendomi i consigli, i giudizi. L'ultima volta che ci eravamo visti era stato per riportarle il libro che mi aveva prestato. Proprio quel giorno, parlando delle poesie di Sir Walter Scott, espresse il desiderio di vedere una copia di Marmion, il libro che avevo ricevuto quella mattina, e io considerai subito la possibilità di mandarlo a prendere per regalarglielo. Ciò nonostante, per forzare il suo tempio ci voleva lo stesso una scusa, per questo avevo rimediato un collarino blu per il cucciolo di Arthur. Dopo averglielo consegnato, ottenendo una felicità e una gratitudine sproporzionate rispetto al dono in sé, e soprattutto considerando il fine egoistico che mi muoveva, chiesi alla signora se il quadro fosse ancora lì e se potevo guardarlo. Ma certo, disse conducendomi nello studio, giacché ci eravamo incontrati in giardino. Il quadro è pronto, incorniciato e lo sto per spedire, ma se avete qualcosa da segnalarmi sappiate che la terrò in considerazione. Era davvero splendido, era riuscita a riprodurre su una tela quella scena esattamente come era quel giorno. Tuttavia manifestai la mia ammirazione senza esagerare, per timore di importunarla con eccessivi complimenti. Però vidi che lei seguiva il mio sguardo e che, vedendomi tanto sinceramente ammirato, dovette provare un moto di orgoglio di artista. Io intanto pensavo al libro e al modo in cui avrei potuto darglielo. Ero emozionatissimo, ma non volevo andarmene senza averci prima almeno provato. Inutile aspettare il momento migliore o prepararmi un discorso. Sarebbe stato meglio se fosse avvenuto tutto in modo semplice e naturale. Guardai fuori dalla finestra. Presi coraggio, tirai fuori il libro dalla tasca e glielo allungai, dicendole: ricordo che volevate vedere Marmion, signora Graham. Eccolo qui. Spero che abbiate il buon cuore di accettarlo. La vidi arrossire, leggermente, forse imbarazzata del mio stesso disagio nell'offrirle quel dono. Lo guardò, rigirandoselo tra le mani e sfogliandolo in silenzio con serietà. Poi lo richiuse e mi chiese con molta calma quanto costasse. Mi sentii arrossire terribilmente. Non voglio offendervi, signor Markham, ma per accettare questo libro devo pagarlo. E così dicendo, lo posò sul tavolo. Perché? Perché? Esitò un istante abbassando lo sguardo sul tappeto. Perché? Le chiesi di nuovo in tono abbastanza arrabbiato da costringerla ad alzare gli occhi verso di me. Perché non amo trovarmi in debito con qualcuno sapendo di non essere nelle condizioni di poter onorare quel debito. Vi devo già molto per le attenzioni che riservate a mio figlio, ma l'affetto e la felicità di Arthur rappresentano già per voi una ricompensa. Oh, sono sciocchezze, dissi. Mi guardò di nuovo negli occhi, seria, con un'aria sorpresa che mi arrivò come un rimprovero, sebbene non saprei dire se fosse l'effetto che aveva desiderato provocare. Quindi non lo accetterete? Le domandai più calmo. Lo accetterò con gioia se mi permetterete di pagarlo. A quel punto le comunicai il prezzo del libro e il costo della spedizione, cercando di restare calmo quando in realtà mi veniva da piangere per la delusione e per la rabbia. Lei prese il borsellino e contò i soldi. Esitò prima di darmeli. Mi guardò con attenzione e disse dolcemente: Voi vi sentite offeso, signor Markham, ma io vorrei che capiste. Capisco benissimo, dissi io. Siete convinta che se accettaste questo dono io potrei ritenermi in futuro creditore nei vostri confronti, ma è uno sbaglio. Se vorrete accettarlo, vi assicuro che non sarà per me motivo di alcun genere di speranza, né un precedente per potervi chiedere qualche futuro favore. Non ha senso che vi sentiate in debito con me. Inoltre, già che il dovere è tutto dalla mia parte, e dalla vostra il favore. Allora va bene, vi prendo la lettera, mi disse sorridendo e rimettendo i soldi nel borsellino. Ma vi prego, ricordatevene. Certo che me ne ricorderò, e io vi prego di non punire il mio ardire togliendomi l'amicizia, e non aspettatevi nemmeno che mi comporti d'ora in avanti in modo più distaccato, le dissi prima di andarmene, poiché ero troppo sconvolto per trattenermi oltre. Ebbene, resteremo quel che siamo stati finora, disse lei, dandomi la mano. Stringendogliela, dovetti sforzarmi per non portarla alle labbra, ma sarebbe stato un crimine. Mi ero già spinto fin troppo oltre, rischiando con il mio gesto prematuro di cancellare per sempre le mie speranze. Tornai a casa di corsa, colmo di rabbia e agitazione, incurante del caldo sole di mezzodì, senza nient'altro in testa che la donna che avevo appena lasciato, il suo distacco, la mia avventatezza e insensibilità, la sua determinazione, la mia incapacità di aggirarla e la speranza di... Ah, basta così! Non voglio tediarti con i desideri, le paure, le risoluzioni e i pensieri che si agitavano dentro di me. Capitolo 9. Non provavo più l'affetto di un tempo per Eliza. Ciò nonostante non avevo smesso di frequentare la casa del reverendo perché volevo che le cose si smorzassero in maniera delicata, senza provocare troppo dolore, né volevo diventare lo zimbello della parrocchia. E poi, se avessi interrotto di punto in bianco le mie visite, il reverendo stesso, convinto che io andassi lì solo per lui, se la sarebbe presa in prima persona. Il giorno dopo il mio colloquio con la signora Graham, quindi andai a casa Millward. Il parroco non c'era, eventualità non più tanto gradita come un tempo. C'era la signorina Millward, in effetti, che tuttavia era poco più che inesistente. Decisi comunque di fermarmi a scambiare due chiacchiere con Eliza, con il tono fraterno che la nostra lunga amicizia mi autorizzava a tenere con lei, un tono che non l'avrebbe offesa e non avrebbe alimentato illusioni. Solitamente non parlavo mai della signora Graham con nessuno. Ma dopo 3 minuti fu Eliza stessa a tirar fuori l'argomento e in modo piuttosto inatteso. Markham, disse con aria turbata e in tono cospiratorio, che cosa ne pensate di queste voci sconcertanti che corrono sul conto della signora Graham? Dite che dobbiamo prestarvi fede? Quali voci? Su via, non potete non saperlo, disse sorridendo maliziosa e scuotendo la testa. In realtà non lo so davvero. A cosa vi riferite, Eliza? Ah, non chiedetelo a me, non so dirvi niente. A quel punto prese il fazzoletto su cui stava cucendo un bordo di pizzo e si rimise al lavoro. Signorina Millward, a cosa si riferisce Eliza? Chiese alla sorella, che nel frattempo era intenta a far l'orlo a un ampio lenzuolo di cotone grezzo. Non saprei, ma di sicuro una diceria senza fondamento inventata da qualcuno. È stata Eliza a parlarmene l'altro giorno, io non ne sapevo niente. Ma se anche l'avessero spifferata ai 4:20, non ci crederei neppure per un attimo. Conosco troppo bene la signora Graham. Ma certo, sono d'accordo anch'io, signorina Millward, qualsiasi cosa sia. Ottimo, fece Eliza con un sospiro. È un sollievo sentire confermato il valore delle persone a cui siamo affezionati. Mi auguro solo che non dobbiate un giorno riconoscere di avere mal riposto la vostra fiducia. E così dicendo, mi guardò con una tale dolorosa dolcezza che per poco non mi si sciolse il cuore. Notai che c'era qualcosa di irritante nei suoi occhi e mi chiesi come avessi potuto trovarli un tempo tanto attraenti. Erano molto più piacevoli il viso aperto e i piccoli occhi grigi di sua sorella, ma forse in quel momento ero troppo arrabbiato con Eliza per avere insinuato quelle cose sul conto della signora Graham, cose false, ne ero certo. Non dissi altro allora. E pochissimo aggiunsi anche in successive occasioni. Tuttavia, consapevole di non essere in grado di mantenermi calmo, decisi di andarmene con la scusa di dover sbrigare un lavoro. Tornai alla fattoria, niente affatto preoccupato che quelle voci fossero vere, ma piuttosto di scoprire a cosa si riferissero di preciso, da dove si fossero originate e come fare per tacitarle o smontarle. Qualche giorno dopo avevamo organizzato una delle nostre solite feste, cui avevamo invitato le solite persone, inclusa la signora Graham, che, non potendo più accampare la scusa delle giornate corte e fredde, con mia grande gioia venne. Senza di lei avrei trovato la serata di una noia insopportabile. Invece, al suo arrivo, la casa mi parve più felice. E anche se non potevo trascurare in suo favore gli altri ospiti, né sperare di avere solo per me le sue attenzioni, mi misi nella disposizione d'animo di trascorrere una piacevole serata. Venne anche Lawrence, un po' dopo gli altri, ed ero molto curioso di vedere come si sarebbe comportato con la signora Graham. La salutò con un breve inchino, poi salutò anche gli altri e andò a sedersi tra Rose e mia madre, ben lontano da lei. Non trovate che siano davvero bravissimi? Sussurrò Eliza, che era seduta accanto a me. Sembrano due estranei. E quindi? Come sarebbe? Non vorrete ancora fingere di non sapere? Di non sapere cosa? Le chiesi con tanta furia da farla sussultare. Sht, abbassate la voce! E allora spiegatevi, replicai, non amo gli indovinelli. Dunque, io non posso garantire che si tratti di una storia vera, ovviamente, ma non avete sentito dire che. Non ho sentito un bel niente se non da voi, per l'appunto. E allora significa che non volete sentire, dato che chiunque potrebbe dirvi che. Ma non voglio farvi inquietare, preferisco mordermi la lingua. E così dicendo, chiuse la bocca e si mise a braccia conserte. Se non aveste voluto farmi inquietare, avreste fatto meglio a mordervi la lingua all'inizio. A questo punto tanto vale dirmi le cose come stanno. Lei si voltò, Tirò fuori un fazzoletto e si alzò per raggiungere la finestra. Chiaramente stava piangendo. Io ero sorpreso, furioso, imbarazzato, non tanto dalla mia durezza quanto dalla sua fragilità quasi infantile. Nessuno se n'era accorto, comunque, e dopo un po' ci chiamarono a tavola. Dalle nostre parti era costume sedersi a tavola all'ora del tè come per un pasto qualsiasi. Si cenava abbastanza presto, infatti. Presi posto accanto a Rosa. Poi una voce tremula mi domandò: «Posso sedermi qui vicino?» «Se volete», risposi io. Eliza prese posto e mi guardò con un sorriso triste, eppure ironico. «Gilbert, siete così severo?» Le servì il tè con un mezzo sorriso senza aggiungere nulla, perché nulla avevo da aggiungere. «Come vi ho offeso, se l'ho fatto?» mi domandò con amarezza. «Lo vorrei sapere.» «Prendete il vostro tè, non siate sciocca, Eliza», le dissi passandole lo zucchero e la panna. In quel momento, accanto a me, ci fu un po' di confusione, poiché la signorina Wilson aveva chiesto a Rose di fare scambio di posto con lei. «Vi prego di farmi accomodare al vostro posto, signorina Markham. Perché non siedo volentieri accanto alla signora Graham? Se vostra madre ritiene opportuno invitare certe persone a casa sua, di sicuro non avrà da obiettare se sua figlia siede loro accanto.» Aggiunse quest'ultima frase tra sé, quando Rosa si era già spostata e io non ebbi la cortesia di passarci sopra. «Sareste così gentile da spiegarmi a cosa vi riferite, signorina Wilson?» le chiesi. La mia domanda la colse di sorpresa, ma non più di tanto. «Dicevo solo, signor Markham, che mi meraviglia che vostra madre inviti certa gente in casa sua. Non lo sa che la signora Graham non gode di una rispettabile reputazione?» «No, lei non lo sa e nemmeno io, se volete essere così gentile da spiegarvi.» «Ah, non è certamente questo il luogo né il momento giusto, ma non capisco come possiate essere davvero all'oscuro di certe cose, come dite. In fondo la conoscete almeno quanto la conosco io.» «Direi di sì, e forse anche di più. Quindi, se volete usarmi la cortesia di spiegarmi cosa avete sentito sul suo conto, vedrò come mi sarà possibile chiarire la faccenda.» «Saprete dirmi chi era suo marito, allora, se mai ne ha avuto uno?» Ero così arrabbiato che non riuscivo neppure a parlare. Preferii restare in silenzio. Non era il momento di rispondere. «Non avete notato quanta somiglianza c'è tra il bambino e...» mi chiese Eliza. «E chi?» chiese Jane Wilson con aria fintamente disinteressata eppure pungente. Eliza, che aveva fatto quel commento solo per le mie orecchie, si irrigidì. «Oh, chiedo scusa», disse. «Io devo essermi sbagliata», disse rivolgendomi uno sguardo sarcastico con la coda dell'occhio. «Non serve affatto che vi scusiate», le disse l'amica. «Io comunque non trovo che il bambino somigli a nessuno che sia presente in questa stanza, a parte sua madre. E fareste meglio a non ripetere tutte le dicerie che sentite in giro. Ve ne sarei grata.» «Immagino che voleste riferirvi a signor Lawrence poco fa. Ebbene, credo di potervi assicurare che sono voci infondate. E qualsiasi sia il legame tra Lawrence e la signora Graham, egli ha il buon gusto, cosa che non si può certo dire di altri, di limitarsi a salutarla con un inchino quando si trova in presenza di altre persone. Evidentemente non si aspettava di trovarla qui e non gli ha fatto piacere.» «Forza», disse Fergus, che era seduto accanto a Eliza ed era l'unico a dividere con noi quel lato del tavolo. «Forza, avanti così, pietra su pietra!» Nel frattempo la signorina Wilson ritrovò la sua compostezza e rivolse a Eliza uno sguardo gelido e sprezzante. Eliza avrebbe risposto, se non l'avessi anticipata io, commentando in tono calmo, ma di sicuro anche tradendo in parte quel che provavo: «Penso che sia stato detto abbastanza. Se apriamo bocca solo per calunniare chi è migliore di noi, tanto vale tenerla chiusa.» «Ben detto», fece Fergus. «E la pensa allo stesso modo anche il reverendo, che nel tenere banco, intrattenendo gli ospiti, non faceva che guardare in questa direzione, con l'aria di non approvare nemmeno un po' tutto questo bisbigliare. E si interrompeva, come dire: quando il signor Markham avrà finito di stare a parlottare con quelle due signorine, potrò concludere il discorso.» Non saprei dire quali argomenti furono discussi a tavola, né so dove trovai la calma per restare seduto tutto il tempo. Mandai giù il tè che mi era rimasto con difficoltà e non toccai cibo. Guardai subito Arthur Graham, che sedeva accanto alla madre dall'altra parte del tavolo, e poi Lawrence. Mi sembrò di trovare in effetti una somiglianza, ma mi convinsi che era solo frutto della mia immaginazione. Avevano entrambi dei tratti delicati e una struttura esile, caratteristiche rare nei membri del sesso forte. Lorenz aveva una pelle chiara e luminosa come quella del piccolo, ma il nasino di Arthur mai e poi mai sarebbe potuto diventare lungo come il suo. C'era una linea che seguiva il profilo del suo volto, fino al mento con la fossetta che, sebbene non propriamente rotonda, non sarebbe mai potuta diventare magra e ovale come nell'altro. Arthur aveva capelli più chiari di quanto quegli altri fossero mai stati, e i suoi occhi chiari e grandi, talvolta così seri, erano molto diversi da quelli timidi e castani di Lawrence, dietro i quali la sua anima schiva si nascondeva per difendersi da un mondo troppo duro e spiacevole. Come potevo anche solo pensare a una cosa del genere? Come se non conoscessi la signora Graham, come se non avessi tanto spesso conversato con lei, come se non fossi certo di quanto fosse superiore ai suoi detrattori in intelligenza e nobiltà d'animo, come se non fosse la più adorabile e perfetta esponente del suo sesso che avessi mai visto e addirittura immaginato. Ma certo, ed ero d'accordo con Mary Millward, se anche tutti si fossero messi a calunniarla, non avrei creduto a una sola parola perché la conoscevo molto meglio di loro. Intanto avevo il cervello in fiamme per la rabbia e il cuore pronto a esplodere per la quantità di emozioni contrastanti che vi si agitavano. Guardavo le graziose ragazze che avevo accanto con tale sprezzo da venire spesso silenziosamente rimproverato con lo sguardo, da più parti, per la mia scarsa partecipazione ai discorsi che si tenevano a tavola e per il mio atteggiamento nei confronti delle nostre ospiti. Non mi interessava. L'unica cosa di cui mi importava, oltre all'oggetto dei miei pensieri, era che portassero via una volta per tutte il vassoio del tè. Per quante volte ancora il reverendo Millward avrebbe ripetuto che a lui il tè non piaceva, che non bisognava riempirsi la pancia di certe zozzerie, ma preferire altre bevande più sane, finendo intanto la sua quarta tazza. Quando il pasto finalmente terminò, mi alzai da tavola senza scusarmi. Non avrei sopportato di restare in loro compagnia neppure un minuto di più. Uscii in giardino a rinfrescarmi le idee e pensare in libertà nell'aria profumata del pomeriggio. Non volevo che mi vedessero attraverso le finestre e scesi lungo un sentiero fino a una panchina di pietra circondata da rose e caprifoglio. Così mi sedetti a riflettere sui difetti e le virtù della signora di Wildfell Hall. Era passato solo qualche minuto quando sentii voci e risate tra gli alberi e capii che erano usciti tutti a prendere una boccata d'aria. Mi feci piccolo e sperai che non mi vedessero e di poter restare lì da solo. E invece no, sentii qualcuno che scendeva giù per il sentiero, accidenti. Non potevano restare a godersi il sole in giardino e lasciare quello spazio all'ombra solo a me, alle zanzare e ai moschini. Guardai tra i rami profumati per scoprire chi fosse e la mia irritazione si placò immediatamente per lasciare spazio nel mio cuore a ben altri sentimenti. Era la signora Graham, infatti, con suo figlio. Perché stavano scendendo da soli? Le voci si erano già diffuse? In effetti avevo visto la signora Wilson avvicinarsi a mia madre all'inizio della serata come volerle bisbigliare qualcosa all'orecchio. E dal modo in cui scuoteva la testa, corrugava la fronte e strizzava gli occhietti, avevo intuito che doveva trattarsi di qualcuno dei suoi soliti scandali. Inoltre, vedendo il modo in cui mia madre si dimostrava incredula e sconvolta, avevo dedotto che doveva riguardare la signora Graham. Non uscii allo scoperto finché non ebbe raggiunto la fine del vialetto. Temevo che vedendomi se ne sarebbe andata, e infatti quando mi vide sembrò sul punto di tornare sui suoi passi. Eravamo in cerca di un posticino tranquillo anche noi, ma non vogliamo assolutamente turbare la vostra solitudine, signor Markham. Non sono un eremita, signora, anche se forse lo si potrebbe pensare, dato il modo sgarbato in cui mi sono allontanato dai miei ospiti. Ho pensato che vi sentiste poco bene, mi disse lei sinceramente preoccupata. Restate qui seduti per un po', che ne dite? Vi piace questo pergolato? E così dicendo, tirai su Arthur e lo misi a sedere sulla panchina al centro per rassicurare la madre, che andò subito a sedersi da un lato mentre io prendevo posto dall'altro. Aveva capito che quello era un riparo sicuro. Quella parola, tuttavia, non mi piaceva. Erano stati così sgradevoli da costringerla a cercare riparo? Come mai hanno lasciato che vi allontanaste da sola? Oh, per la verità sono io a essermi allontanata, rispose sorridendo. Non ne potevo più di sentire tanti discorsi superficiali. Non c'è niente che mi stanchi di più e non mi capacito di come possano vivere così. Era così sinceramente stupita che non potei fare a meno di sorridere. Beh, dipende dal fatto che ritengono di dover parlare senza freno e quindi parlano senza fermarsi a pensare a quel che dicono, a meno che qualcuno non offra loro un altro argomento di conversazione. O davvero si compiacciono di quel che dicono? È probabile che si compiacciano, le risposi. Hanno mentalità ristrette, non adatte a contenere grandi idee, e una leggerezza tale da poter essere trasportata da ogni minima futilità. Adorano rimestare negli scandali, non conoscono un divertimento più grande. Ma non saranno tutti così, disse lei stupita. No, di certo no. Mia sorella, ad esempio, non si compiace di certe cose, e neppure mia madre, a dire il vero. Tuttavia, non so se aveste incluso anche lei nel biasimo generale. Ma io non volevo biasimare nessuno, né parlare male di vostra madre. Conosco diverse persone di buon senso capaci di intrattenersi con successo in simili conversazioni, se la circostanza lo richiede. Eppure non posso dire che sia una mia dote. Ho cercato di restare il più possibile partecipe finché non ho sentito che le mie forze stavano cedendo e sono venuta a cercare un po' di sollievo. Detesto parlare quando non vi siano scambi di idee o sentimenti, quando non si doni o si riceva qualcosa di buono. In questo caso, vi prego di dirmelo subito quando trovate la mia conversazione troppo fastidiosa. Vi assicuro che non mi offenderò. Posso apprezzare la compagnia delle persone che... degli amici... anche nel silenzio. Stento a crederlo, ma se fosse vero, sareste il mio compagno ideale. Ne deduco che il resto di me vi vada bene, quindi. Non intendevo quello, ma che belle foglie alla luce del sole, concluse cambiando argomento. Era vero, erano bellissime. Il sole filtrava tra gli alberi, inondando di verde scuro una luce dorata. Vorrei non essere una pittrice, disse. Perché? Avrei detto che in momenti come questi una pittrice si sentisse invece privilegiata a poter riprodurre certe sfumature brillanti della natura. No, perché non posso godermele e basta, come tutti. Non posso fare a meno di pensare a come raffigurarle sulla tela, e poiché sarebbe impossibile, in effetti è uno strazio per la mia vanità. Certo, magari i risultati di tanta fatica non riescono a essere per voi una piena soddisfazione, ma per gli altri possono essere un dono. È vero, non dovrei proprio lamentarmi. Non sono molte le persone che possono guadagnarsi da vivere traendo tanta gioia dal loro lavoro. Sta arrivando qualcuno. Sembrava infastidita da quell'interruzione. Ah, sono il signor Lawrence e la signorina Wilson, dissi. Stanno facendo una passeggiata per conto loro e non ci disturberanno. Non capii fino in fondo cosa esprimesse il suo sguardo, ma fui contento di notare che non c'erano segni di gelosia. Ma in fondo che me ne importava? Cosa mi dite della signorina Wilson? Mi chiese. È una ragazza elegante e ben educata, ben al di sopra della sua famiglia. Qualcuno la trova piacevole. L'ho trovata piuttosto distaccata e arrogante oggi. Ah, forse si comporta così solo con voi. Temo infatti che abbia un certo pregiudizio nei vostri confronti e che vi consideri una rivale. Una rivale? Ma è impossibile, signor Markham, rispose visibilmente stupita e seccata. Non saprei davvero, replicai. Ebbi l'impressione che fosse seccata proprio con me. I due ci avevano quasi raggiunto. Il pergolato sotto cui eravamo noi era poco oltre il punto in cui il vialetto sfociava in un sentiero più ampio che costeggiava il giardino. Vidi che Jane Wilson stava ammiccando con il suo compagno verso di noi. Da qualche parola e dall'espressione sprezzante di lei, compresi bene cosa stava cercando di mettergli in testa, e cioè che la signora e io fossimo molto uniti. Il signor Lawrence arrossì visibilmente e ci guardò di nascosto mentre ci passava accanto imbronciato, pur senza rispondere. Mi sembrò alle illazioni della signorina Wilson. Quindi il signor Lawrence aveva davvero delle mire sulla signora Graham? Ma se erano intenzioni serie le sue, perché farne mistero? Evidentemente lei non ne aveva colpa, eppure lui si rendeva a dir poco insopportabile. Stavo giusto facendo queste riflessioni quando la signora Graham si alzò di scatto e richiamò il figlio dicendogli che sarebbero andati incontro agli altri. E così dicendo si avviò su per il vialetto. Di sicuro aveva sentito o intuito anche lei quel che la signorina Wilson aveva voluto intendere, ed era naturale che non desiderasse trattenersi da sola con me, anche considerando che in quel momento avevo io stesso il volto in fiamme per la rabbia che i commenti della mia ex amica mi avevano suscitato. E non sarebbe stato difficile scambiare il mio rossore per semplice imbarazzo. A maggior ragione sentii di detestare Jane Wilson, anzi, più rimuginavo sul modo in cui si era comportata e più la odiavo. Raggiunsi gli altri che era ormai tardi. La signora Graham era in procinto di andarsene e stava salutando tutti. Le chiesi, anzi, la supplicai di lasciare che l'accompagnassi a casa. Lawrence era impegnato a chiacchierare con qualcun altro e non ci stava guardando, ma notai che smise un istante di parlare per sentire cosa mi rispondeva lei, per poi riprendere lieto la sua conversazione quando sentì che aveva declinato la mia offerta. L'aveva declinata, è vero, ma non con scortesia. Non si convinse del fatto che fosse rischioso per lei e il figlio attraversare quei campi e quei sentieri solitari. C'era ancora luce e non avrebbe incontrato nessuno, e in ogni caso la gente di lì era gente a posto, gente innocua. Così disse. Non avrebbe lasciato che nessuno l'accompagnasse a casa, nonostante Fergus fosse pronto a farsi avanti in caso la sua offerta fosse stata più accettabile della mia per la signora, e mia madre insistesse per mandare a chiamare un contadino che la riportasse a casa. Quando andò via lei, sembrò tutto vuoto, o peggio ancora. Lawrence cercò di parlarmi, infatti, ma io mi allontanai. Pian piano se ne andarono anche gli altri e alla fine se ne andò anche lui. Finsi di non vedere la sua mano tesa e di non sentire la sua buonanotte finché non lo ripeté. Pur di liberarmene, gli risposi a mezza bocca con un cenno del capo. «Che vi prende, Markham?» mi chiese. Lo guardai pieno di rabbia e sdegno. «Vi brucia non aver potuto riaccompagnare a casa la signora Graham?» aggiunse con un sorriso che per poco non fece traboccare la mia pazienza. «Non vedo come la cosa possa riguardarvi». Infatti non mi riguarda, rispose. Ma lasciate che vi dica una cosa, Markham. Se avete delle speranze in quel senso, non saranno esaudite. E non vorrei vedervi coltivare illusioni e indirizzare energie inutilmente in quella direzione, perché... Ipocrita, risposi a mezza bocca. Lui restò di sasso e mi guardò stupito. Impallidì e andò via senza aggiungere altro. L'avevo colpito e ne ero contento.